non si modifichino in modo tale, per esempio, da presupporre ci possa essere una minaccia d'aborto o di parto prematuro. Dopodiché esiste naturalmente anche la valutazione degli esami anatici, certo, che viene fatta routinariamente. E vengono fatti di routine. Va bene, allora siamo pronti, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie. Buona giornata. Arrivederci, grazie. È tempo, ragazzi, di trasferirci in cucina. Ci aspettano la dottoressa Paola Reverso, nutrizionista, Andrea Ribaldone, chef stellato, molto noto perché l'avete sicuramente visto alla Prova del Cuoco in TV, e ad Alessandria ha un ristorante alla fermata, e dico stellato perché ha ottenuto la stella Michelin. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Un cuoco in famiglia, cucinare come un vero chef in modo sano, questo è quello che cerchiamo di fare nei laboratori di Essere Benessere, che sono giunti ormai all'ultimo appuntamento, e noi oggi, per concludere, usiamo la frutta. Ecco, la prima domanda subito per la dottoressa Reverso. Quando parliamo di frutta, molte persone dicono: ma io non posso mangiarla dopo pasto, a chiusura di pasto, perché mi hanno detto che poi fa ingrassare. Oppure no, invece bisogna mangiarla proprio a chiusura di pasto, perché in qualche modo ci sono alcuni tipi di frutta che anzi aiutano a digerire. Allora, ci sono delle indicazioni, dottoressa Reverso? Ci sono dei motivi, o alcune persone hanno magari un'indicazione per mangiare la frutta lontano, vicino dal pasto, o ognuno la mangia come vuole? La frutta dopo il pasto noi medici tendiamo a sconsigliarla a chi soffre di gastrite o di colite, proprio perché si aumenta nel primo caso l'acidità, nel secondo caso si può dare un senso di gonfiore e di fermentazione, proprio perché a volte la frutta va a concludere un pasto molto ricco. Ma se noi mangiamo una bella insalatona e con tantissima verdura, e poi ci associamo della frutta e ci ricordiamo anche di masticare, certi frutti vanno masticati. La bicocca per esempio va frantumata bene, perché la pellicina che la riveste contiene delle fibre. Il momento migliore per mangiare la frutta resta al mattino a colazione, sicuramente sì. Allora, Andrea, la frutta apparentemente, quando è fresca e ben scelta, non avrebbe bisogno del cuoco, è perfetta in sé come sapore, no? Le verdure anche, ma solo alcune verdure. La frutta sembra è bella e buona. Invece il cuoco, il vero chef, con la frutta ci gioca, e non solamente per concludere un pasto. Io sono... credo che il dessert del futuro, il dessert della ristorazione soprattutto, ma penso molto anche in casa, sia quello di usare molto la frutta, perché alleggerisce i gusti, lascia il palato fresco e non è eccessivamente dolce, quindi lavorarla insieme ad un dessert è molto molto importante. E poi anche nella cucina salata penso a piatti buonissimi, non so, un abbinamento il maiale con le mele annurche, altri abbinamenti, l'anatra con le ciliegie, che insomma possiamo fare mille esempi. Senti, mille esempi, ma allora, stando alla frutta, possiamo suggerire degli abbinamenti sfiziosi ai nostri amici da casa, proprio costruire un menù che piaccia anche ai bambini, perché continua a metterti delle difficoltà, che piaccia anche ai bambini, che sia di stagione, dall'antipasto al dolce, o se non dall'antipasto dal primo, ma utilizzare la frutta di stagione per ricette salate e anche dolci. Ce la facciamo con i commenti poi della dottoressa Reverso? Allora, guarda, io dico tre piatti: un antipasto, e farei un'insalata fresca. Quindi metterei susine e ciliegie. Trovate ancora le ciliegie, soprattutto se siete in una zona di montagna, sono al massimo. Poi metterei delle foglie, tipo foglie di barbabietola, della rucola, e ancora pinoli, a dare appunto frutta secca, a dare anche una parte croccante. E poi farei a parte, scottate in padella molto forte, un petto d'anatra. Lo tagliate a fettine, lo lasciate a rosa, non cuocetelo troppo, sempre, non cuocete troppo. Lo lasciate a rosa, lo tagliate a fettine, lo ponete insieme alla vostra insalata fresca di frutta e verdura, e poi fate una vinaigrette con olio e un goccio di salsa di soia, che si sposa bene con tutti questi elementi. Inrovate e servite fresco come antipasto, è buonissimo. Come primo farei un riso, quindi invece che fare il classico riso Carnaroli bianco, che è buonissimo, in questo caso usiamo il riso Venere, che è nero. Il riso nero. E lo facciamo con fragole e rabarbaro. Praticamente fate cuocere il riso bollito, a parte saltate il rabarbaro, lo trovate nel vostro verduriere di fiducia, lo trovate, non è difficile. Lo pulite leggermente. E ecco, quando voi dite lo pulite leggermente, noi andiamo in crisi. Si tolgono un po' i filamenti, quelli un po' più duretti, esatto, no? Esatto, come il sedano. Come il sedano. Come il sedano, con un pelapatate pulite i filamenti. Mm. Molto semplice, non è difficile. Lo tagliate a pezzettini con le fragole e lo saltate in padella con un goccio d'olio extravergine, appena appena, perché sennò le fragole si lasciano andare. Compensa il rabarbaro la dolcezza delle fragole con una nota acida. E condite il vostro riso con questo rabarbaro e fragole. A parte, se volete, potete usare, adesso la stagione va benissimo, dei crostacei, quindi gamberi, scampi, quello che trovate sul mercato che vi può sembrare giusto su quel piatto, va benissimo. E poi come secondo, a mio parere, si potrebbe fare pollo e ananas, è una ricetta che ci porta anche in mari lontani, i caraibici, e quindi fate cuocere il petto di pollo o la coscia, a seconda di quello che vi piace di più, con ananas e olio extravergine. Regolate di sale, se volete mettete un po' di curry in modo da dare sapore a questa ricetta, e lo lasciate andare finché il petto o la coccia siano ben cotti. Ma l'ananas lo metto dopo, Andrea, prima faccio saltare un po' il pollo, metto tutto insieme. Possiamo mettere tutto insieme, facciamo cuocere, poi togliamo il pollo, frulliamo la salsa che a quel punto è addensata, ha preso anche il grasso, la parte grassa della pelle del pollo, quindi comunque ha preso sapore, un po' di curry. Frulliamo la salsa, a parte rosoliamo un colpo veloce alla fine solo sulla pelle il nostro pollo in modo che prenda croccantezza, e serviamo il pollo con questa salsa all'ananas. È semplice, semplice e buono. Dottoressa Reverso, allora facciamo un po' i commenti a queste ricette, perché hanno sicuramente il pregio di essere rapide, devo dire gustose, ma curiosamente gustose per questi abbinamenti fatti proprio ad arte, l'aggiunta dei pinoli, dei semi oleosi con la frutta, e poi Andrea ha strutturato proprio un menù per, naturalmente, per le grandi occasioni, ma direi molto equilibrato. Ma lascio la parola a lei, perché è lei la nutrizionista. Una cosa importante da dire: la frutta contiene vitamina C, ne contiene in percentuale diversa a secondo dei tipi di frutta. Andrea, per esempio, ha parlato di fragole. Fragole sono ricchissime di vitamina C. Ricordiamoci una cosa, che la vitamina E che è contenuta nei pinoli, che rendono questo piatto, gli danno quella nota di croccantezza che Andrea la sottolinea, e me l'ha sottolineata spessissimo quando abbiamo scritto il libro, ed è una nota da non trascurare, perché fa piacere ogni tanto masticare qualcosa, sì, che scrocchia sotto i denti. E c'è una cosa importante da dire: la vitamina E che è contenuta nei pinoli può essere assorbita soltanto se viene attivata dalla vitamina C. Ecco, quindi questa è veramente una combinazione geniale e salutare, dottoressa. Direi proprio di sì, per questo che mi permetto di dire una cosa: se noi medici vogliamo fare prevenzione, vogliamo aiutare le persone a capire cosa possono fare per preservare la propria salute e quella dei loro familiari, l'unico modo per aiutarli veramente è quello di unirci ai cuochi, altrimenti noi medici rimaniamo solo un camice bianco che dà dei divieti, ma il cuoco invece è sempre associato a qualcosa che è gioia, piacere, fantasia, curiosità e divertimento. Ecco, aggiungiamo un po' di fantasia, e poi credo che, Andrea, questo lo chiedo soprattutto a te in chiusura dei nostri laboratori, molto spesso non aggiungiamo la fantasia ma anche presentiamo le nostre ricette sminuendole un po'. Invece io vedo, frequentando, magari andando al ristorante, la fantasia degli chef nel descrivere il loro piatto. Tante volte si sceglie proprio un primo o un secondo dal titolo, no? Ecco, e quindi è l'invito che a chiusura di questi laboratori faccio ai miei ascoltatori: non dite solo pasta oggi mangiamo pasta al pomodoro, ma possiamo dire, Andrea, suggeriscitelo tu, pasta trafilata al bronzo, saltata con pomodorini di Pachino al profumo di... cambia tutto. Andrea, chiudiamo con questa raccomandazione: aggiungete anche fantasia nel modo in cui date il titolo al vostro piatto. Andrea? Sì, sicuramente così. Mangiare ha varie fasi, no? Non è solo ingerire qualcosa e sentirlo in bocca. prima di tutto, come stai dicendo, è cercare di capire cosa andremo a mangiare, e se è un bel titolo, se c'è, se viene raccontato bene, ci stimola subito l'appetito, questo ecco. È vero, è sicuro. E se no, fatevi aiutare dai vostri bambini. Intanto un grazie particolare alla dottoressa Reverso e ad Andrea Ribaldone, un cuoco in famiglia ormai, un cuoco e un nutrizionista che sono entrate nelle nostre famiglie, sono diventati amici nei laboratori di Essere Benessere. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie, grazie a voi di questa opportunità. Ciao Andrea. Ciao. Allora io saluto i miei ospiti e saluto voi che ci avete seguito, vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata e fantasia da Nicoletta Carbone.